Le parole del Presidente Fini sono state chiare, mi auguro che lo siano altrettanto le parole del Presidente Schifani, però manca all'appello una posizione della quale credo, giustamente e legittimamente, il Paese si attende di sentire il contenuto, ed è la posizione del Presidente del Consiglio, il quale è chiamato a dire se le parole di un suo Ministro sono parole che condivide, a questo punto non più solamente le parole di un suo Ministro, ma le parole di un gruppo che fa organicamente parte, con elevate responsabilità, della maggioranza che egli dirige. Mi aspetto che le parole del Presidente Berlusconi arrivino in tempi brevi.